programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Allora, un cordiale buongiorno, grazie ancora ad Alessio Arduino per avermi lasciato i microfoni aperti. Gli auguriamo una bellissima giornata. Fai tanto male perché lui odio. Aiuta. Allora, giornate afosissime, tocchiamo i 43-44 gradi. Non sono Fahrenheit, ragazzi, sono gradi centigradi. E la pelle scotta, però, grazie a Dio, abbiamo un mare stupendo, splendido. Abbiamo delle montagne ancora incontaminate, dove, grazie a Dio, chi ci viene a trovare, ma anche noi stessi, possiamo, rinfrancarci con un po' di frescura, soprattutto la sera nelle nostre campagne a 700-800 metri un po' di frescura scende. Occhio ai cinghiali, sono degli ibridi che questi amano molto gli uomini e ci vengono a trovare fino a casa, mettendo magari a soqquadro sotto sopra i nostri giardini, però insomma, ecco, bisogna amare anche gli animali con tutti nessi e connessi. Mi raccomando, lasciateli stare tranquilli fino a quando potete, poi se entrano anche in casa, voglio dire, lì si deve intervenire in maniera diversa. Allora, dicevo, l'ultima puntata di questa serie, riprenderemo a settembre, vi ricordo carte e penne, studio Filippo Glosa alla console come sempre, Raul Bova, che ringrazio per la parte tecnica, due ospiti in studio straordinari, devo dire, uno un personaggio che adesso insomma vedrete in video, ma lo sentirete anche parlare, è un personaggio a tutto tondo, ex ballerino, anzi no, qual è ex, è ancora ballerino perché lui ama fare queste cose, un pacifista convinto, ne parleremo tra poco, poi gestisce un locale che è tutto un programma, è un pub, ma sarà da settembre anche un'azienda agroturistica, e lui vedendolo così insomma vi assicuro che sarà di sicuro successo, perché è una persona insomma eclettica, straordinaria, le sue idee che io condivido in pieno, poi chiaramente sono i vari distinguo, non tutti gli uomini siamo uguali, non tutti possiamo pensare allo stesso modo, però buona parte di quello che lui dice è condivisibile, vi assicuro che è un personaggio, adesso lo sentirete. Poi nell'altro microfono invece un altro personaggio famoso, forse non conosciutissimo come me in tutta Italia, però è famoso perché lui ha una bellissima band, ne parleremo tra poco, ha già girato, hanno già inciso, sono stati anche negli States, al quinto posto mi pare della hit parade statunitensi nell'ambito del loro specifico musicale. È giovane, 27enne, pensate, ha un look di tutto riguardo, ma anche il mio amico qui che sembra, diceva prima l'editore, un attore francese di origine italiana, Jean-Paul Belmondo, ti porterà ancora più fortuna. Però dicevo, sono personaggi straordinari, se a volte i palinsesti televisivi nazionali hanno difficoltà a girare a trovare personaggi, vi assicuro che se scendete in Sicilia ne trovate uno per ogni via, perché i siciliani, a differenza di molti, come i napoletani, ecco, siamo un po' simili, il regno delle due Sicilie, mentre i napoletani hanno il verbo, il modo di parlare, di giocarellare, di inventarsi le cose, noi siciliani con il verbo facciamo altre cose, sfottiamo, prendiamo in giro, e siamo dei personaggi anche lì straordinari, parimenti ai napoletani, per cui pregherei gli amici della RAI, di Canale 5, dei vari palinsesti televisivi nazionali di scendere giù e scoprire questi personaggi. Lui per esempio somiglia molto a D'Artagnan, lo vedo con questo baffetto, il pizzettino, insomma sono scenograficamente abbaglianti, per dirla chiara. Intanto li potete vedere anche in diretta televisiva, per cui se vi state sintonizzando in questo momento vi ricordo CRM carta e penna e in studio Filippo Glorioso www.crmpiredio.it per seguirci via internet, oppure potete interagire con noi via Facebook, oppure chiamando il numero telefonico, un attimo perché la vecchiaia mi ha portato via anche un po' di vista, 0921 923292 per le vostre richieste telefoniche. Allora, di cosa parliamo oggi? Sul tavolo parliamo di questi due personaggi, di quello che fanno nella vita per vivere e non solo, e soprattutto parleremo di un argomento che a me sta molto a cuore, quello della disoccupazione, quello dei tagli alla spesa pubblica, quello che sta succedendo. Lo so che è retorica, però non possiamo esimerci, ci sono centinaia e centinaia di persone che stanno rischiando veramente grosso, stanno rischiando il posto di lavoro. Lombardo mi sa che si è finalmente dimesso, se non ricordo male, ma si continua ad assumere personaggi di alto bordo pagandoli fior di milioni, mentre la gente non riesce più nemmeno a fare la spesa. Sono degli argomenti toccanti, so di toccare dei tasti dolenti, mi auguro che il popolo siciliano, che sempre stato pronto alla riscossa, non dico di fare i vespri siciliani per carità di Dio, però sarebbe opportuno che le nostre coscienze si svegliassero, perché se i nostri signori politici continuano a dormire, dormono e dormono sopra i nostri soldi, sopra i nostri risparmi, e questo a me sinceramente non sta per niente bene. Tutti abbiamo il sacrosanto diritto di farci le vacanze, tutti abbiamo il sacrosanto diritto di mangiarci un pezzettino di pane con la bistecchina, qualora non ci fosse anche un pezzettino di formaggio, ma se ci tolgono anche quello diventiamo cani randagi, e allora lì si innesta poi, no? Si innesta una situazione situazione straordinaria. Allora, di tutto questo e di altro parliamo con il primo personaggio. Lui si chiama Ciro, vi dico anche il cognome, Andollina con due L, ed è un ex ballerino. Si è divertito da delle pazze gioie in quella dell'Emilia Romagna, che è un posto incantevole, meraviglioso, soprattutto Cattolica, Rimini, Riccione, Bandiera Gialla, e lì insomma è la vera, come dire, la vera bandiera, no, del divertimento goliardico a 360 gradi. Allora, Ciro, Andollina, parliamo un attimo di te. Quando ti sei accorto di avere questa predisposizione per il ballo? Come inizia la tua storia? È un po' la musica. È la musica che ti trasporta, ecco. Io ho avuto il piacere di ospitare nel mio locale anche i bambini. Ieri sera ce n'era. Parliamo del tuo locale, così capiscono di cosa stiamo parlando. Ce n'era uno che a 6 anni aveva. No, perdona, a 2 anni aveva una chitarra in mano. E mentre seguiva la musica che mandava in onda, lui suonava il colpedino. Beh, ce l'abbiamo nel DNA. Ecco, io non sono diventato mai un musicista, però credo di esserlo, nel senso che vivo più o meno nello stesso modo in cui. Sì, poi ci sono loro, per loro ne ha appena parlato, sono un gruppo di gente straordinaria. Che a volte mi fa sentire lui si chiama Roy Zappia, sì, lui si chiama Roy Zappia e fa parte di un gruppo straordinario. Lui, è un chitarrista e voce solista. Loro europea e hanno avuto un gran successo, si sono davvero molto. Senti, andiamo per gradi, così non facciamo confusione. Intanto parliamo del tuo di locale. Quando nasce il locale, da quanto tempo tu sei a capo di questo locale, lo stai portando avanti? Ma guarda, il Ciro Spibol è un locale che è sempre esistito. Sarebbe il popolo di Ciro, in sostanza. Sì, no, del Ciro, è il popolo del locale, non il mio del popolo. Ciro, sì. Io sono un popolano. Io ci vivo in quel locale. A me, guarda, solo a guardarti vedo arrivare, perché sei un personaggio. Vai avanti. Metto gli occhiali. Quello ti rende ancora di più un personaggio. Dai. Ecco, ho messo gli occhiali. Dai. Allora, dicevo, è sempre esistito nella mia mente. Allora, quel locale è nato perché Montemaggiore è terra di musica e di musicisti, è casa e paese natale di Nunzio Tortorato, un noto compositore conosciuto ormai a livello internazionale, così come gli Inside the Hall. Sono venuto fuori alla riparta, sì, un gruppo che è molto seguito, c'è un gruppo che ne vale la pena ascoltare. Per quale motivo la gente di tutta la Sicilia, io ne sono convinto che è bello venire al tuo locale, perché dovrebbe venire al tuo locale? Cosa c'è di diverso da tutti gli altri locali? Allora, tutti i locali che io ho visitato, ho vissuto, sono belli, sì. Hanno quella particolare che ti attira. Allora, io ho cercato in tutti i modi di dare creatività a quel locale, in base a, rendendolo un po' diverso da tutti gli altri locali. Allora, l'unico modo che praticamente mi poteva dare successo a quel locale era uno solo: seguire la strada che ho sempre sperato di seguire, era quello nel campo musicale e quello della natura. Allora, ho abbinato queste due cose in pratica, sto facendo vivere un qualcosa di fantastico. Il mio locale credo che sia favoloso, appunto perché è fuori, è in mezzo ai pini, quindi immerso su delle terrazze Una bella vista, cioè, è bello quello che quindi bello. Se non erro, adesso tu dovresti partire con una una partecipazione straordinaria di tutti di un po' di DJ che sono famosi o meno famosi, che si daranno poi battaglia tra loro dentro il tuo locale. Questo sarà un appuntamento che faremo a breve. Avremo, spero, il successo che abbiamo avuto con Freedom Rock Fest, con quel festival rock che... Stiamo parlando di Montemaggiore Bersito, sì, ecco. Stiamo parlando di Montemaggiore Bersito, che non abbiamo i cinghiali, non abbiamo il mare, ma il mare l'abbiamo di fronte, ecco. Quindi ti arriva l'aria, l'ebbrezza. Sì, ci arriva un po' l'ebbrezza. Allora, facciamo un po' il riassunto, Ciro. Allora, indipendentemente dal look, Ciro è un pacifista convinto, ha anche le immagini della maglietta, lo vedete in questo momento in diretta. Però è una persona amabilissima, una persona che io rispetto molto per le idee che ha, sono molto condivisibili adesso a parte parte le mie provocazioni, buone care, però è un personaggio meraviglioso. Ha questo locale che non si può definire soltanto pub, ma che è un pub, ristorante, pizzeria, è un tutt'uno con la musica, tra l'altro. Quindi cosa dovete fare? Andate a trovare Ciro, che vi riceverà a braccia aperte, perché è una persona umanissima, straordinaria. Lì avete modo di gustare i piatti che la sua azienda produce. Da settembre, diciamo, è anche l'azienda agroturistica, quindi il pernottamento si può anche effettuare. Ti chiedo, cosa fai di buono nella tua azienda? Cosa offri? Se io vengo una sera da te con la mia compagna e dei miei amici a cenare da te, qual è il piatto più bello che tu fai, allora, più gustoso? Nello stato attuale, solo perché non siamo partiti con la ristorazione, cioè, quindi è un po' la pizza. Ah, ecco. È un prodotto amato non solo perché si chiama pizza, perché un bel momento ho deciso di prenderla per mano, nel senso che stancando un po' di tutto il lavoro che ti fa della gente estranea, che poi non riesce molto spesso a fare quel luogo proprio suo, quindi a lavorare con amore, con tutte queste cose qua. E a un bel momento ho deciso di prenderne in mano le redini, quindi il prodotto me lo faccio io. Ho perso tutti i clienti all'inizio, perché capite come va, no? Simpatici. Ma poi alla fine devo dire che il nostro prodotto è molto buono. Siamo riusciti a fare un buon prodotto, di qualità, che sta lasciando contenti. Allora, facciamo una cosa: intanto, siccome ci stanno ascoltando e vedendo, diciamo l'indirizzo esatto dove è la tua location, dove è allocato il tuo pub, ristorante, pizzeria, insomma il tuo complesso, non musicale evidentemente, ma il tuo complesso come struttura ricettiva per i clienti. Quindi siamo a Monte Maggiore del Bersito. Poi cosa bisogna fare? Abbiamo dei numeri di riferimento telefonici, vogliamo darli? Sì, allora abbiamo oggi, che è un po' il mio, il 388 34 33 383, ecco. E mi trovate sempre, io vivo in quel locale, quella è la mia casa. Cioè lui è innamoratissimo, ma è convinto, sia così. Io poi alla fine l'altro giorno dicevo alle mie figlie che sei pure papà? Sì, sono un papà. Ma sarei un papà tipico, insomma. Sì. Non ho il piacere più di avere una moglie, nel senso che non, cioè, però dico sono un papà. Cioè, tua moglie si è stancata? Cosa è successo? Ti sei stancato tu? Com'è la cosa? Che conosci il personaggio? Parlerei un po' della mia vita privata. Non andiamo oltre. Sì, ironicamente possiamo dire che sì, è stata una persona molto intelligente, mi ha lasciato. No. Vabbè, era come avevo detto mia nonna, un'altra ebbica. Capisci? Mi avrei mandato al Maurizio Costa. È un personaggio, ragazzi, ve l'assicuro, ed è anche simpatico al di fuori della goliardia dietro il microfono. Ti fermo un attimo, Ciro, desideravo un attimo parlare, anche se vuoi intervieni tranquillamente, non c'è problema, qui non c'è una scaletta, parli tu, parli lui, siamo una famiglia. Perfetto. Allora, io intanto volevo sapere da Roy è un nome tipicamente inglese, anglosassone, da dove nasce questo Roy? Ma è un Roberto, cos'è? No, è un diminutivo di che per lo stesso motivo suo della mia privacy non dico il mio vero nome. Non entriamo nel merito, si chiama Roy. Zappia, sì. Anche tu sei di Monte Maggiore del Bersito. Da quanto tempo ti occupi di musica e da quanto tempo suonate insieme al tuo gruppo, che si chiama? Allora, andiamo per ordine. Mi occupo di musica, tra virgolette, da quando avevo 15 anni, così, ma come ascoltatore inizialmente, come rocker, amante del rock, delle sonorità heavy metal, eccetera, eccetera. Poi intorno ai 18-19 anni mia madre mi ha regalato la mia prima chitarra, quindi da lì è partito tutto. Il primo amore non si scorda mai. Esattamente. Senti, tu parlavi del genere musicale che fate voi, che è un po' sul rock, ma più sul blues, no? Facciamo questo, spieghiamo alla gente cos'è il blues. Chi ha detto lavori lo sa, ma molti di voi blues, il soul, facciamo il distinguo, quindi cos'è il rock, diciamo in termini stretti, e spieghiamo per sommi capi, insomma, che un'anima nera, il blues, che parte dalle piantagioni di cotone, insomma. Sì, diciamo che entrambi i generi musicali hanno un'origine afroamericana, diciamo, che deriva insomma dalla deportazione degli schiavi neri, eccetera, eccetera, bla bla bla. Il blues, ad esempio, è un'espressione di quello che quella persona, il lavoratore, voleva dire per come posso dire, per porre un per porre fine alla propria sofferenza, difatti è un canto, insomma, sono dei canti di sofferenza. Sì, sì, si dice to have the blue devils, cioè avere i diavoli blu, che significa appunto essere triste, di pessimo umore, eccetera eccetera. Mi piace molto il concetto del blues, ad esempio nelle nostre canzoni, sì. I testi che scrivo hanno anche il concetto di sofferenza, ma fino a un certo punto. Anche un po' d'allegria, non guasta. Ovviamente, tanto, perché, no? Perché già sennò... i tempi sono brutti, lo sappiamo che sono brutti. Se ci aberriamo anche con la musica a queste cose, non andiamo avanti, non ne usciamo. Senti, più. Nonostante la giovane età, nonostante il gruppo, quanti anni che convivete insieme come gruppo? Ma nemmeno poi tanto, un paio d'anni. In un paio d'anni siete riusciti a fare quanti CD e siete riusciti ad arrivare addirittura al quinto posto, mi dicevi prima, fuori onda in America. Sì, sì, sì. Allora, come CD ne abbiamo fatto fino adesso solo uno, ma già abbiamo in cantiere di proseguire, anche perché abbiamo circa 10 brani pronti quasi per il prossimo album, che è uscito nel dicembre del 2011. Il titolo è Beer, Sex and Fucking Roll, quindi molto vivo, come abbastanza, insomma, abbastanza movimentato, sì, sì, ma delle sì, volte sì. Delle volte allungare il sugo non fa bene, allungare il succo non fa bene, bisogna essere diretti per fare capire. Se non lo capisci sei cretino. Ti voglio fare una domanda nel sì, senso tecnico. Facile. No, è semplicissima. Quando io incontro dei musicisti, lui per esempio avrà sicuramente, quando era ballerino, girando in lungo e largo, si sarà fatto nella sua mente un'immagine di riflesso, no? Di un personaggio storico, di un personaggio eclettico. Lui è particolare come persona. Un po' gli artisti siamo un po' tutti un po' strani. Io ho i miei silenzi, ho le mie iperbole, ho i miei momenti, per cui voglio dire, siamo strani. Però nella nostra stranezza siamo della brava gente, voglio dire, non siamo dei cani randaggi che vanno a sbranare la gente in giro. No, siamo molto tranquilli. Più umani, penso. Bene, no, beh, quello è chiaro. Se non hai del, come dire, chi è musicista, chi è ballerino, chi è pittore, insomma, ha dentro di sé delle emozioni, sì, sì, sì. No? Che tiriamo fuori con la voce, parlando, tu suonando, lui ballando e creando quello che ha creato. Altrimenti le sensibilità non hanno motivo di esistere. Certo. Però voglio dire, mi è sfuggita adesso la domanda. No, ah, ecco, ci siamo. Perché poi si passa di vari in frasca ed è facile dimenticare la domanda iniziale. Tu hai da ragazzino avuto un tuo idolo, perché hai suonato la chitarra, mamma ti ha regalato la chitarra, sei cresciuto con questa chitarra, ma c'era un Santana in te, c'era un Eric Clapton, non so. Ma io ti posso dire che a 5 anni ballavo saltavo sul letto cantando, ora. Cioè, già scatenato di allora. Era Turi Fruri di Little Richard, per cui già c'era potenzialmente qualcosa. Dovevo fare per forza questo, cioè dovevo fare. Io spero di farlo sempre a livelli migliori, di migliorarmi sempre, di lavorare sempre, però per intanto sto bene così. Tu invece che tipo di ballo eri, in che tipo di ballo eri specializzato? Ne deve valere... Ero specializzato, cioè io non ero specializzato, cioè ero uno che in pratica facevo scena un po' come si fa scena, che fa scena un giocoliere, un saltimbanco. Ah, ma avevi frequentato delle scuole di ballo prima? Avevi preso no, ma che scuole di ballo? Eri autodidatta? Sì, autodidatta. Ti sei scatenato così? No, poi allora, se uno si può divertire a tu fare mi sembra un anche ballo un po' celentano, togliendo, mettendo un po' ballo di gruppo, che lo faccia pure, attenzione, ah. Cioè, anche quello, purché si diverta la gente, che faccia certo. quello che crede. Però se io devo ballare, allora ci sono dei balli che non riesco a ballare, cioè, come faccio a ballare se un ballo che non mi piace? Ah, ecco, devi sentirlo. Proprio perché me lo insegnano pure, cioè io devo sentirlo per ballare. Un po' come la quindi musica. Quindi il rock and roll, come diceva lui, io sono cresciuto un po' con gli AC/DC, sono cresciuto un po' con questa gente, quindi un po' come lui sono un po' come Elvis anche. Sono no, rock no, perché no. Facevo rock and roll acrobatico, quindi pure. Lui è un rocker. Sì, sì. Non si è fatto mancare nulla. Su tutto. Poi c'era la musica, allora c'era l'afrocubana. Le salse, le merenghe. Andava forte, no? C'era Prince che andava forte, tanti altri, quindi era quel genere, quel sound che è più che altro. Ecco perché frequentavo più, discoteche dove era molto presente questa musica, come l'Allerchino di Santa Maria Catafiume. Negli anni questa cosa è un po' sfumata oppure ti è rimasta ancora? Sì, un po' come il cognac. Pensate che la gente ha smesso di bere il cognac, io ho smesso di bere. Ho capito, hai finito di bere. Però credo che questo locale ti possa dare ancora di più l'input, perché io ritengo che l'uomo ha due fasi fondamentali nella vita: la fase della giovinezza, dove bruci tutte le tappe subito perché vuoi scoprire tutto subito; la nostra età invece, no, ti fa riassaporare le cose tipo a rallentatore, tu vedi la musica, il batte, i gusti, queste, non vai di fretta più. È così, Ciro, secondo te? Ma guarda, io penso che la vita abbia una fase. Cioè, almeno nella mia vita viaggia una fase, nel senso che io ho quel locale, l'ho presentato qualche mese fa, adesso cercherò di farlo crescere in tutti i modi. Qualora non dovesse riuscire questo progetto, non dovesse riuscire a certi livelli, io la mia fase continua altrove. Cioè, non è che mi fermo lì e basta. Non è che praticamente la mia fase è una fase giovanile, ecco perché io stasera non è che mi ha accompagnato qualcuno, io sono venuto con qualcuno, nel senso che sono arrivato con qualcuno, perché cioè, lui è una generazione con cui io mi confronto bene. Quindi questa gente qua, gente che a me mi ti casa, insomma, no, mi fa vivere bene, nel senso che io, confrontandomi con loro, a volte dico ci devo pensare. Capisci? Nel senso che no, Ciro, ascolta, è gente che ti dà tantissimo. Poi prendo il discorso di poc'anzi, scusami se no, prego, e poi non abbiamo chiuso. Stiamo lavorando su quel progetto, lo sto facendo con grande piacere, con questa radio che ha mostrato molta serietà nei nostri confronti, con degli orari rispettati, con una professionalità 30 anni ben gradita da noi, ecco. Quindi allora il futuro è prossimo, faremo un festival dopo quello rock, lo faremo di musica house, avremo i migliori DJ della zona che il prossimo anno si confronteranno con se tutto va bene, se la gente dice Ciro continua, la gente dice Ciro continua. Ecco, c'è Toti Caruso che è un DJ nostro che insomma è di... ne stiamo parlando con lui, ragazzo, perché uno dei migliori, un ragazzo di ottimo spessore, e spero di averlo nel nostro locale. Tu pensa, siamo colleghi, ci vediamo da 5 anni in radio, lo stimo professionalmente, ma non ho mai il piacere di poterlo intervistare una volta in radio. Mi riprometto di farlo a settembre, quando lui chiuderà le sue tournée. Chiudi pure il tuo concetto di cui stavamo parlando prima, per quanto attiene il tuo locale. Quindi questo incontro, diciamo, tra DJ, sì, questo rodation con dei bravissimi DJ, in una notte tutta house, ma ci sarà tanto live, perché là in pratica assieme a questi DJ ci saranno dei percussionisti, dei violinisti, ci saranno dei sassofonisti, tutta gente che poi andrà dietro a questa musica, che praticamente ci farà stare svegli e saltare tutta la notte fino all'alba, perché da noi sapete come funziona, no? Si entra e non si esce, si mangia e si continua a ballare, non stop. Vedo che invece appuntamenti importanti, sicuramente non diciamo la tua età, dico la mia, io ne ho 53, lui è molto più giovane di me, Ciro. Sì, ne ho solo 49 49, sono 4 quando anni, lui avrà 104 anni e ne avrò 100, quindi consolati, sarai fine, ancora giovane. Invece notavo con piacere che Roy, e poi passiamo la linea alla regia, Roy sorridi perché sai che personaggio è lui, o sai di cosa è capace di fare lui? Sì, ma è un po' entrambe le cose. È un grande. sì, ridevo divertito, perché ci mette l'anima, ci mette il cuore in quello che fa. E tanta sincerità, perché tanta poi sincerità, dietro personaggi come lui, che sembrano così eclettici, un po' strani, ci sono dei cuori che battono, delle persone sensibili. È poi amare la musica, insomma, già la dice lunga sulla sensibilità. Allora ci fermiamo un solo istante, do la linea alla regia per una brevissima pausa pubblicitaria, al termine riprenderemo noi a parlare. E ragazzi, vi assicuro che Celentano con lui quasi quasi, mi sa che se la battono i due. chi? Urlavano nei comizi più di un Cherokee. Non c'erano TV come di Nembo Kid, né radioattive come Nubia Chernobyl. C'era l'uomo qualunque, sostenuto dal fronte dell'uomo qualunque. Nella schiena dei partiti affondo le unghie. Io non sono di destra né di sinistra, sono un uomo qualunque. E lo Stato è demagogo, nel sistema bipolare non mi ci ritrovo. Oh, ferma tutto, devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo. Vivo decenni dopo nello stesso clima che su questo fuoco getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina. Qualcuno è il primo partito di questo paese. Grazie e arrivederci. Bene, adesso Mister e Miss faranno del Parlamento la Diaz del Blitz. Non distinguono il foglio dal manifesto, del resto io non distingo Libero da Gin Fizz. La democrazia fa la fine del VIP che ritrova KP sull'uscio dell'hotel Ritz. E siamo tutti nelle mani di chi? Di questi che per diventare qualcuno cambiano nick? Sì, di fronte dell'uomo qualcuno a voti a cubo. Mamma che dolore al culo, lo appuro. Se questo è uno scherzo, manca di sense of humor. Che mal rovescio stiamo seppellendo nell'endemol generation. Devo aspettare di perdere il mio diritto di voto per guadagnare il diritto alla nomination? E allora rieccoci un'altra volta in diretta, stiamo bene perché qui dentro l'aria condizionata, fuori non si respira ragazzi, si è troppo caldo, però il mare è bellissimo. Oggi mi andrò a fare un tuffetto piccolo piccolo perché io non amo fare le immersioni, anche perché so come si scende ma non so come si sale. Allora, sempre in compagnia con l'amico Ciro Andollina, un personaggio, mi assicuro che è una persona molto seria. Sta investendo dei capitali non indifferenti per questo suo locale, lo dobbiamo lanciare alla grande perché ha delle idee straordinarie a mio modo di vedere. Poi c'è Roy Zappia che è un amico del Ciro, ma è un grande musicista, è un gruppo straordinario, poi vi farò dire anche il nome, e se vi capita comprate anche il CD perché sono veramente dei brani straordinari, inediti perché li scrivono loro, quindi la musica è veramente fatta come Dio comanda, cioè in casa proprio, senza possibilità di inficimenti esterni, no? Fate tutto voi. Indubbiamente le influenze ci sono, ma beh, quello è chiaro, quello è chiaro. Però posso dire che sono canzoni inedite. Sono canzoni inedite, poi ne ascolteremo magari qualcuno. Poi sono degli ottimi musicisti. Cioè. Ecco, se vengono al tuo locale, voi vi esibite qualche volta nel locale di Ciro, sì. Quindi quando la prossima serata? Quando la prossima serata di Ciro? Solo la decidono sempre loro. Allora, tu cosa fai? Gli dai l'imprimatore e poi fanno tutto loro. La prossima serata sarà per la festa della birra. Noi saremo, organizzeremo la festa della birra il 18. Vai. E ci saranno loro e poi ci sarà un DJ dopo da fucilare. Ragazzi, oggi è una puntata straordinaria. Io vi devo stoppare anche perché devo dare due comunicati. La prima mi riguarda molto da vicino. Dunque, il 16, se volete, dice, ma noi che attinenza abbiamo? Nulla, vi fate una camminata a Castelbuono, è un paese stupendo dove si fanno molte manifestazioni. E il 16 alle ore 21 siete invitati tutti. quelli che ci stanno ascoltando a venire su Pro Ponte, sarebbe dove c'è il Bar Rosso Nero, è facilissimo, proprio sopra la caserma dei Carabinieri accanto alla Banca di Sicilia. Perché? Perché c'è la presentazione ufficiale da parte del buon Fabio Capuana, che è il presidente della Polisportiva di Castelbuono, che in due anni è riuscito a portare dalla seconda in prima categoria, dalla terza in prima categoria, la squadra del Castelbuono Calcio. Non è solo quello, c'è il pallavolo eccetera, però principalmente quel giorno 16 alle 21 davanti al Bar Rosso Nero, che è lo sponsor ufficiale di questo evento, si presenterà la squadra, i nuovi innesti, i nuovi acquisti della squadra, il nuovo mister della squadra, quindi c'è la grande festa per gli sportivi castelbonesi, ma per gli sportivi in generale. Questa è la prima. La seconda, vi invito invece, visto che siamo in estate, il caldo e l'inverno rigido, c'è un'altra notizia in diretta secondo me da dare, perché qui alla mia destra, a parte avere quel rockman, abbiamo il presidente della Montemaggiore Calcio, che ecco, in promozione, facciamo un gemellaggio con Fabio Capuano, che è giovane come te, è giovanissimo, vieni, mi prendo io la responsabilità di averti invitato, ti presento il tuo omologo, cioè il presidente della Polisportiva di Castelbuono, e chissà che non possa nascere un amore e poi magari vi possiate convolare giuste nozze, no? Cioè una... scherzo. Lui è uno che cattura, quindi no, ma siete tutti e due in gambissima. Dicevo, l'estate è molto calda, l'inverno molto rigido, può causare danni ai vostri infissi, allora dovete fare telefonare all'Ital Finestre, ne lo trovate in via Roma, c'è uno showroom straordinario, lo trovate a Cerda, dunque l'esposizione in via Roma 2H a Cerda, in provincia di Palermo, le lavorazioni sono in contrada Baida, quindi il centro di produzione è in contrada Baida, ma voi dovete visitare lo showroom. Vi do il numero 091 899 2757, perché vi dico, vi parlo di Ital Finestre, perché produzione intanto di porte di interni, anche su richiesta e su misura, poi abbiamo le finestre in PVC e in alluminio che sono indistruttibili, la produzione è incontrata a Baida, ve l'ho già detto, allora le maniglie poi non ci sono problemi, c'è una vastissima gamma, ricordatevi questo nome che è straordinario, Ital Finestra, lo trovate in via Roma per lo showroom, vi ricordo il numero 091 899 2757, andateci a nome di Filippo Glorioso, qualche sconticino sul preventivo sicuramente vi verrà fatto. Prima di andare avanti con la trasmissione bisogna ringraziare e salutare intanto il Bar Rosso Nero, di cui facevo cenno prima, perché è un bar che si dà da fare a 360 gradi, soprattutto organizza eventi come per esempio quello di giorno 16 alle 21 per la presentazione ufficiale della squadra di prima categoria del Castelbuono Calcio, e poi è P. Howard, poi organizza serate, poi il 10 agosto c'è questa, il 16 agosto ve lo ribadisco, l'appuntamento per la presentazione sia del mister che dei nuovi acquisti della prima categoria della squadra della Polisportiva Castelbuono, e poi paninaria, sala giochi, insomma è un posto di ritrovo straordinario, Bar Rosso Nero. Per chi invece ama la lettura, per chi ama comprare quotidiani, per chi ama erudirsi a 360 gradi, deve andare a Edicole Barreca, perché vastissima gamma di scelta sui libri, a mare avete modo di leggere, noi italiani in verità leggiamo molto poco rispetto agli anglosassoni, rispetto agli inglesi, però la lettura, diciamo i latini, è nutrimento per il nostro cervello. Poi se vi serve della computisteria, se vi serve delle penne, compass, tutto quello che necessita, il fabbisogno per la scuola, lo trovate all'Edicola Barreca, ma trovate anche il quotidiano e trovate anche i buoni libri da leggere durante l'arco dell'estate, ma anche quando fuori il tempo è uggioso e magari non c'è cosa fare, uno si mette in una poltroncina davanti al camino con un buon libro in mano, insomma, voglio dire, è un qualcosa di straordinariamente bello, magari una sana pipa, un buon sigaro per chi fuma, può essere un tocca sano. Edicola Barreca e Bar Rosso Nero. Allora, torniamo, sono le 13.47 e 54 minuti in questo momento al nostro Voce, vi ricordo che sta ascoltando Carta e Penna in studio Filippo Glorioso con due ospiti straordinari, Ciro Andollina, che è anche responsabile, oltre ad essere un ex ballerino, di un locale straordinario che è pub e dunque pizzeria e ristorante, sarà anche un'azienda agrituristica a tutto tondo, organizza degli eventi straordinari, stavamo parlando poco fa, e poi con l'altro nostro amico Roy Zappia, che è il chitarrista e voce, quindi cantante di questo gruppo, il cui nome è del gruppo? Inside the Hole. Inside, che significa? Dentro il buco. Aia, aia, aia, attenzione, non mettiamo il tappo, poi non potete più uscire fuori. No, comunque già è un bel nome, e lui è un ragazzo, devo dire, alle spalle molto larghe, nonostante la sua giovane età, penso che abbia raggiunto la maturità giusta, anche perché poi la musica ti porta ad essere con i piedi per terra, no? Sì, sì, un po' la vita anche, diciamo, che mi porta ad avere sempre i piedi per terra e misurare il passo quanto la gamba consente. Senti, diciamo, siete andati sicuramente in tournée qualche volta, avete fatto delle tappe? La prima tournée che abbiamo fatto. Non avete fatto i tappi, non avete le tappe, sì, i tappi un'altra cosa. Ce li hanno fatti. Ah, li hanno fatti. Nel senso che mi hanno pagato. Cominciamo ad andare bene. Abbiamo fatto sì. una tournée in giugno, grazie ad una band di Palermo con cui siamo partiti come open act, cioè aprivamo i loro concerti. Siamo stati in Bulgaria, Austria, Germania, Polonia, Ucraina, in Bosnia, ma non ci hanno fatto entrare. E beh, lì è normale. Non perché non eravate bravi, ma perché erano formalmente su tutta loro, insomma, voglio dire. Vabbè, non mi soffermo. Non ti soffermare. Siamo stati in Ungheria pure, insomma, abbiamo girato, abbiamo fatto in 18 giorni circa 12 concerti. Una gran bella esperienza. Secondo te nella musica quanto può aiutare comporre musica, quindi crearla, quanto può aiutare una persona a raggiungere un certo grado di maturità nel crescere, voglio dire, come uomo? Ma o come donna? Io ho un'idea, cioè non è tanto la musica che fai che ti fa crescere. La musica è una conseguenza di quello che sei, penso. Sì. Quindi alla base ci vuole, devi essere una persona dotata di mente, in principal modo la coerenza. Fare il genere, una volta che parliamo di musica, ma si può estendere in qualsiasi ambito, sì, della vita, diciamo, fare le cose secondo la tua coerenza, secondo quello che pensi, scendere a compromessi talvolta, non sempre, perché sennò snaturi il tuo messaggio. Ed essere veritieri, avere il rispetto delle altre persone senza per forza prenderle in giro o comunque cercare di trarne dei benefici, per così dire. Niente, bisogna. Io la vivo così, sono me stesso. Senti Ciro, ci sono diverse band, che famose, meno famose, i Beatles, i Rolling Stones, i Queen, per citare alcuni di levatura internazionale, Kip 84, poi in Italia negli anni 60 c'è stato un come dire un vivaio di le orme, PFM, soffioso. Bravo, ecco. Qualcuno resiste ancora. Ne saluto, anzi approfitto per salutare Giancarlo Golzi, che è il batterista di Mattia Bazar, con il quale ho un ottimo rapporto di amicizia. Ecco, i Mattia Bazar che sono riusciti a cavalcare ancora l'onda del successo, e tantissimi altri gruppi. Ma cos'è che deve funzionare in un gruppo polivalente, perché comunque ognuno di noi è un cervello pensante a sé stante, poi può essere concorde o meno in sincronia con gli altri, ma c'è sempre l'individualità che va a cozzare, certo, con la collettività. Qual è il segreto del successo di un gruppo affinché possa andare avanti nel tempo? Guarda, io non so quale sia il segreto del successo, anche perché dico, però credo che avere degli obiettivi comuni, quindi remare tutti verso la stessa direzione, un po' come una squadra di calcio, sì. Sì, ovvio, sia una cosa fondamentale per poter andare avanti. Bisogna essere amici, bisogna essere molto amici, secondo me. Quindi l'oggettività a fronte della soggettività, no? Cioè il gruppo a fronte del singolo, perché sennò non si va da sì, nessuna parte. Ma logicamente ognuno di noi siamo tre, per cui non abbiamo grossi problemi, siamo pure ottimi amici, cioè amici fraterni, se si può dire, quindi non è che ci siano grossi problemi. Sono molto fortunato. Ma certo. Mi sono trovato in altre situazioni in cui eravamo cinque. Il mio batterista attuale lo può confermare, perché abbiamo suonato sempre assieme ed è stata dura cercare di accordare tutte le teste, cervelli, perché ognuno ha i suoi problemi. Perché poi il discorso qual è? Che se tu dai priorità ai tuoi problemi e non tieni in considerazione il gruppo, non tanto i problemi degli altri, perché i problemi degli altri li mettiamo da parte, non li facciamo interferire col gruppo. Se tu fai così, ovviamente capita oggi, capita domani, capita dopodomani, prima non poi si può litiga. Andare più avanti. Prima o poi si litiga. È logico. Ciro, tu hai molta più esperienza rispetto a lui, che ha 27 anni e poi ha fatto tante sotto cose. Sotto certo punto di vista, perché sì, poi dire, certo, lui musicalmente ha deciso di crescere e poi... No, io mi riferivo all'aspetto umano, no? Tu hai girato un sì, po', sei stato... Sì, ma un po' di anni in più. Giusto per quello. Senti, secondo te, siamo in un momento... direi difficilissimo dal punto di vista economico, lo sai meglio di me, stai affrontando delle spese per quello che stai creando, eppure hai tanto coraggio e tanta voglia di fare. Questo è, fa parte del tuo carattere essere così positivo, vedere il bicchiere sempre pieno, oppure noi abbiamo parlato di un progetto, sì. Allora il mio locale è un progetto, ed è un progetto che mi porta oggi ad essere molto elegante. Io sono venuto qua in che credo di essere molto elegante, cioè che in maglietta sulla maglietta ho il simbolo della pace. Della pace, sì, adesso ne parliamo. No bar, quindi, non guerra, quindi la dice lunga. Allora, loro parlano di questo. loro cantano questo, loro... Quindi l'amore, la pace, sì, la... loro dicono tante cose. Adesso credo che sia arrivato un po' il momento di aprire le porte a un nuovo progetto. Da ottobre rimarrò chiuso il lunedì, martedì, mercoledì, perché lavorerò su un progetto che è un movimento pacifista, che ci porterà a dire, credo che sia ritornato il momento. Cioè, se si continua così a spendere soldi per gli armamenti, per buttare le bombe altrove, per ammazzare la gente, e per spendere un po' di soldi per poi il proprio popolo soffrire, credo che l'Italia si debba fermare un po' a riflettere, quindi dobbiamo parlare un po' al popolo. Ti faccio una domanda un po' non provocatoria nel senso cattiva, nel senso di capire un po' se c'è la possibilità. Io per esempio sono contro il fatto che i nostri militari siano andati in missione, non tanto in Libano, perché lì comunque vengono pagati dall'ONU, ma noi abbiamo fuori migliaia di uomini che rischiano la vita, molti hanno perso la vita. Noi abbiamo anche migliaia, milioni, non so che quantitativo di bombe fuori. Cioè, non abbiamo solo bombe, le mine, se noi abbiamo fuori delle croce rossine, delle ambulanze, allora tutto ok, ci può anche stare, ma che le nostre bombe ammazzano. Per farlo bisogna che il nostro popolo intanto sia bene, così come succede in Austria, in Svizzera, in Svezia, un po' dove la gente ha capito che siamo tutti uguali, che la persona che hanno bisogno deve essere aiutata. L'ho fatto l'Austria con me, quando mi ha ospitato, mi ha insegnato un po' il tedesco, mi ha detto, ok, se devi venire qua Ciro devi imparare il tedesco, se no noi ci dobbiamo capire. Certo. Se hai bisogno di soldi diccelo, non te ne devi andare a rubare, noi ti aiutiamo. Ecco, di questo noi abbiamo bisogno. Tu dici, noi abbiamo bisogno di parlare. Oggi il popolo deve capire che è sovrano, e per dirlo tutti insieme dobbiamo parlare, perché esca un'unica voce. Cioè, allora, se abbiamo ben capito, tu dici una cosa saggissima: la gente quasi quasi, visto i problemi che deve affrontare nel quotidiano, quasi quasi non parla non più. Ce la può fare, no ma non parla più, non c'è più dialogo, c'è molto nervosismo, nell'astenismo, perché la gente non ce la fa più. Dice giustamente Ciro, se si riesce o se si riuscisse nel tempo ad avere una forma di dialogo pacifica, tranquilla tra i popoli, no, internazionale, che poi è la parola che accompagna la squadra di calcio di Milano, oltre il Milan, internazionale, che io tifo. Complimenti per la trasmissione. Io quest'anno devo stare un attimo in silenzio perché mi hanno snaturato la squadra, ma comunque adesso ci arriviamo. Condivido molto, e chi ci sta ascoltando secondo me condivide il fatto che il popolo oggi non ha nessun potere decisionale. Ci sono dei poteri occulti che dietro le quinte stanno. Sì, ma se lo deve solo ricordare. Allora, se loro cantano, se io ne parlo, se voi ne parlate, se tutti ne parliamo, tutti sanno. Cioè, tutti un bel momento si svegliano e dicono, come quelli del 68. Tu vorresti fare la rivoluzione del genere, pacifista comunque. Come quello del 68. Cioè, il popolo deve prendere in mano... Gente che non è dovuta scendere a compromesso in campo con dei bazooka, scelto con un simbolo. Poi è chiaro, se fra queste milioni di persone ci sono 20, 30, 40 teppisti, noi bisogna che si mettano non da parte. C'entriamo nulla, ecco, nel senso che se lo Stato, chi rappresenta lo Stato in pratica può far parlare solo quelle 20, 30, 40 persone, è chiaro che poi tutto diventa un po' più difficile. Ma noi sappiamo di una cosa, che il nostro movimento pacifista oggi credo che possa parlare come hanno parlato 50 anni fa, o meglio ancora, io sono figlio di quella generazione, perché essendo nato nel 63 ero giovanissimo, però riuscivo ad ascoltare già a quelle. Secondo me tu hai in mente due persone che sono state pacifiste, che hanno vinto una grandissima guerra, non hanno vinto, cioè hanno perso diverse battaglie ma hanno vinto la guerra finale, la mamma di tutte le guerre. Uno è Martin Luther King, che è stato un pastore protestante americano, black man, cioè uomo nero, il quale diceva spesso e volentieri, ogni volta che lo risento, lo riascolto insieme a Kennedy e John Fitzgerald Kennedy, hanno fatto uno stravolgimento culturale negli Stati Uniti. Chi ha seguito la storia americana sa che il Ku Klux Klan, che è una masnada di delinquenti incappucciati, faceva omicidi senza tanti fronzoli e senza processi a gente solo perché era nera, che poi erano stati portati a forza, e lui ne sapete tutta la storia, e non voglio dilungarmi in questo, ma Martin Luther King diceva spesso: io ho un sogno che un giorno l'uomo bianco possa abbracciarsi con l'uomo nero. Quel sogno è diventato realtà, lui è costata la vita a John Fitzgerald Kennedy, ma fortunatamente in America ancora c'è qualche discrepanza, c'è un po' di discriminazione razziale, come lo era in Sudafrica, l'apartheid, no? E grazie a Dio molti di questi aspetti sono stati superati grazie a uomini pacifisti come lui e come Gandhi, che con il Mahatma Gandhi, che con il suo modo semplice di disubbidienza civile, non violenta verso i britannici, è riuscito a liberare l'India dal predominio britannico. Poi chiaramente molte cose sono rimaste, inglese, si parla, la seconda madrelingua è l'inglese, ci sono delle abitudini, anche la divisa dell'esercito indiano è equivale con i gradi a quella inglese. Però qui ti do ragione, Ciro, quando dicevi se i popoli parlassero una lingua univoca, cioè la stessa lingua di essere pacifisti, di capirsi quando si parla anziché mettere subito sul tavolo la pistola o la bomba a mano. Concordo anche con te col fatto che ne parlava il collega Maurizio Costanzo nelle sue trasmissioni, quando finalmente alcune nostre aziende belliche, dove lavora anche del personale, quindi sono dei lavoratori che guadagnano, ahimè, quello è il loro mestiere, però le nostre mine hanno fatto saltare in aria in Bosnia e Erzegovina, lui ne parlava prima, hanno fatto saltare in aria bambini e amputazioni atroci. Per cui è giusto quello che tu dicevi prima, sì, di avere un nostro arsenale, sì, di avere un nostro esercito, più per difesa che non per offesa. Io ti dirò di più, io sarei d'accordo che andassero degli osservatori civili internazionali nei paesi dove c'è un momento di recrudescenza criminale, di guerra, come in Siria in questo momento, ma che le nostre forze armate, i nostri ragazzi tornassero nella nostra patria, perché abbiamo perso un po' di fiori, li abbiamo appassiti in quelle terre che non sono le nostre. Siamo d'accordo a dare il nostro aiuto economico, culturale, anche di formazione delle polizie di quei paesi per creare la democrazia in quei paesi, ma sicuramente il costo è stato altissimo. Quindi benvengono le tue parole e ci auguriamo tutti che la gente abbia molto buon senso, ma sono i nostri vertici politici che dovrebbero avere un po' di buon senso in più rispetto a quello che non hanno dimostrato fino adesso. Prego. Ma secondo me la gente deve solo decidere a questo punto. E non è difficile, cioè, anche perché ce n'è bisogno. Quindi di fronte a una situazione del genere io penso che parlerà tanto la musica. Lo faremo nel nostro locale sempre, a tutte le ore del giorno, perché da noi la musica... è di casa. È di casa. Allora, abbiamo pochi minuti, dobbiamo chiudere la trasmissione, non prima di aver ringraziato 2M Porte che arredano, lo trovate a Castelbuono, sito www.portechearredano.it, il showroom lo trovate dunque a Castelbuono in via Cavour 74, invece la produzione è incontrata a San Calogero, sempre a Castelbuono. Vi raccomando le porte in rovere massiccio, pensate a 600 euro incluso il montaggio. 2M Porte che arredano. Parliamo, ci fermiamo un attimo qui, prima di salutare i nostri ospiti che sono intervenuti, vi ricordo l'appuntamento con Ciro nel suo locale, che diciamo dove è allocato il tuo locale, il paese. Sì, ecco, allora, un chilometro e mezzo da Monte. Bisogna arrivare dove? Si arriva a Montemaggiore Belsito, a un chilometro e mezzo c'è Ciro's People. Andate a Ciro's People perché c'è il gruppo del nostro amico Roy che si fa sentire, insomma, con la loro musica creata da loro, hanno già inciso, sono molto umili, ma vi assicuro che sono bravissimi. Quindi passerete una sera all'insegna di una buonissima pizza, immersi in un polmone verde, quindi chi viene da Palermo, alle città un po' intossicato, lì avete la possibilità di respirare a pieni polmoni un po' di ossigeno in più, ascoltare della buona musica. E poi questo evento che Ciro non si fermerà lì, ne sono convinto, creerà questi DJ che si incontreranno, disputeranno delle gare tra loro all'insegna del sano divertimento. Faremo anche la festa della birra, perché no? Filippo Glorioso vi aspetta, perché io da Ciro mi ha appena invitato, io andrò a assaggiare la sua pizza, non pagherò quella sera che sono stato invitato. No, scherzo. No, andrò volentieri, ci sarà anche uno dei nostri colleghi di CRM a partecipare a questa kermesse, per cui venite numerosissimi, il divertimento è di sicuro assicurato. E poi due personaggi insomma straordinari come Ciro, che vi accoglierà a braccia aperte e vi farà sicuramente divertire. Lui è un po' cerentano sul mi tocca ringraziarlo perché è stato molto carino. lo ringrazio in diretta in nome di, anche in nome di Roy, penso, perché no, il fatto è che mi avete trascinato voi, perché lui mi accennò prima che ancora eravamo fuori onda che c'erano due personaggi straordinari, e lui mi ha detto un personaggio, ma te ne accorgerai, siccome grazie a Dio tra tante cose che mi mancano nella vita ne ho una di positiva, Dio mi ha dato la possibilità di avere la telecamera nell'occhio, e quindi quando vedo la persona che è un po' particolare mi ci aggrappo ancora di più, perché sono una spugna, mi piace assorbire la gente che è eclettica, che è straordinaria, che non è secchiona, che non è posa piano. Ecco, tu sei un vulcano in continua eruzione, e questo a me trasmette, come tu assorbi da lui, dalla sua energia, dai suoi 27 anni, io mi abbevero invece in personaggi come te, che fanno poi parte delle mie trasmissioni, che animano le mie trasmissioni, ma che sono importanti non soltanto nella nostra Sicilia, non soltanto nel tuo paese, ma sono importanti nel mondo, perché c'è bisogno di tanta allegria e di persone che mettono effervescenze, delle bollicine di champagne nella vita. E noi, noi sorrideremo, e noi difendiamo l'allegria. Sei lo spagnolo, è stupendo. Allora, ringrazio sempre Raul Bova la parte tecnica per l'assistenza, ringrazio gli sponsor che sono intervenuti, ringrazio chi ci ha ascoltato in questo momento, desidero ringraziare e far salutare Luca. Lui è un po' più difficile, perché devi dire dottore Zappia, devi dire maestro Roy, professore, lo chiamiamo, ascolta Ciro, molto semplicemente lo chiamiamo Roy. Roy Zappia, lo ascolteremo la sua chitarra e sentiremo la sua voce, bravo, quando bravo canterà, lo vedremo ad ascoltare, prego. Volevi salutare tu? Sì, saluta. Sì, sì, io sono qua innanzitutto come coorganizzatore del primo Freedom Rock Fest. È bello che ti ha trascinato dentro già il progetto. Sì, sì, per riflesso parliamo anche della mia band. Mi faccio pubblicità. Niente, noi abbiamo un CD che ci potete trovare anche su Facebook, MySpace, Reverb Nation. Basta scrivere Inside the Hall, per chi fosse interessato all'acquisto, Inside the Hall Rock Blues @hotmail.it. Okay. Alla modica cifra di non diciamo ma sì, 10 euro, basta, 10 canzoni, si possono ascoltare un euro a canzone, le sigarette costano di più. Allora ringraziamo Roy, andiamo su Ciro. Ciro, le ultime battute proprio a foto finish. Allora, io saluto tutto, intanto ringrazio la redazione che mi ha dato modo, il piacere di essere qua oggi nel primo pomeriggio. E venite a trovare, credo che sia la parola giusta, nel senso che vivere il mio locale è una bella cosa. Ma poi lo dice con molta enfasi, quindi la gente è già sicura. No, no, vi ripeto, è già un personaggio. Se andate a trovarlo, è sicuramente il divertimento, è che poi si diventa subito amici con Ciro. Non si può essere scevri dal diventare amico di allora, Ciro. Io vi dico le ore in cui sono proprio in palla, ve lo dico subito. Allora, io sono in palla da mezzanotte e mezza, mezzanotte da mezzanotte alle 4 del mattino. Ecco, lì non ricevi, lì non ricevi, dalle mezzanotte alle 4 non ricevi nessuno, cioè nel senso che non sei meglio di te. Se non c'è gente scoppio, senso che allora, mi raccomando, non facciamo scoppiare Ciro, ho bisogno di... Allora, a voi cos'altro devo dire? Intanto ringrazio i due ospiti che sono intervenuti, simpaticissimi. Li andiamo a trovare in questo locale, Ciro's People, a Monte Maggiore Belsito. È un paese straordinario, accogliente, gente, come sentite, molti musicisti sono nati in quel paese, per cui hanno delle sensibilità veramente straordinarie. E a voi che ci state ascoltando, che ci avete seguito, un grazie per essere stati vicino a noi. Un saluto particolare va a tutte quelle persone che non hanno oggi avuto la possibilità di un sorriso. Spero di avervelo regalato noi con la nostra trasmissione e con i nostri ospiti. Se è possibile, siate positivi, che agosto vi possa sorridere, che settembre invece vi possa spalancare le porte a tantissima fortuna. Vi auguro buon fine estate a tutti quanti voi, ci risentiremo nei primi di settembre con ancora carta e penna. Da parte di Filippo Glorioso ancora un grazie di cuore, a tra poco, nel senso che questi giorni voleranno, quindi tra qualche settimana saremo ancora qui a parlare e a parlarvi con voi. Grazie, a risentirci. Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Sì, sì, abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di